vivo. Il mondo intorno è nell'oscurità. Morti e feriti ormai sono normalità, per non parlare dell'immoralità, dell'illegalità. Nella nostra età qualcosa non va, sembra proprio che l'amore non c'è. Come mai farà questa società ad andare avanti con l'odio che c'è qui tra noi, qui tra noi. Politico che parla alla TV dice che presto tutto migliorerà, dice che è colpa di chi ha governato già, ma chi mi assicura che lui non ruberà e che non mentirà? Nella nostra età qualcosa non va, sembra proprio che l'amore non c'è. Come mai farà questa società ad andare avanti con l'odio che c'è qui tra noi, qui tra noi, qui tra noi. Ormai non voglio più pensare, meglio che impegni il tempo a lavorare. Ma anche qui non va, manca la dignità, solo il profitto conta e la realtà non c'è. Viene da me a bussare,